Rolex non basta, un Rolex passa il tempo e non basta. E lei passa di qui poi resta. Un Rolex non sembra, un Rolex tempo di fare il cash, baby, per me, per te resta. Un Rolex è il mio caffè, un Rolex se piove, pioggia di lacrime su vetri di sfume, di fumo, vetri fumé, baby, asciughiamolo insieme sto fiume di lacrime. Di passato resta con me e le mie rime, brindiamo io e te, dimentichiamo ex. Un Rolex e il tempo sode, tra le persiane e la polvere, raggi di sole d'angelo sui nostri corpi, diavolo, restiamo, vogliamo. Un ticchettio di ore Russian roulette, di un amo e non amo, ma se premi il grilletto danno, danno, danno, fallo, se no dimentica tutto e tutto con me. Rolex di un tempo senza lacrime io e te, senza regole di note, di notte rotte di mani e cosce contro il male di ieri.